lui se ne è accorto, ha dato da mercatore, attivano, uscivano assieme ogni sera, non è che andava a casa della moglie, no? Che fa la moglie del divorzio, no, guarda che il divorzio sono a cena fuori, sono, faceva, pigliava, andava, partivano tutti e due con quello del mercatore e andavano a Cosome, che c'era le billette sparse a Sassari e anche al Vero, hai capito? E si divertivano. Questa spagnata è tutta andata con i carri. Ehi, ciao Luca. No, ti ho chiamato poco fa. Stavo dicendo, eravamo ragazzi, io cosa avrò avuto 16-17 anni, avrò avuto massimo esagerato 20 anni. Per cui no, appunto ti sto dicendo, questo lo devo riconoscere, è stato bravo, perché non ha detto niente, non ha detto. Ha detto, ma adesso dice a principale, questo entra, mi dà una susa, mi dà e mi manda a casa anche. Invece lui se ne è uscito fuori, se ne è uscito perché io ero nel magazzino, no? In fondo, dove c'era tutto il materiale, cominciando con la figlia del principale. E lui mi ha detto, va, sta a vedere che adesso succede un patatrac. E invece non ho detto niente. Ma poi ci ha tentato lui, ma quella là non c'è stata, non c'è riuscito, capito? Avanti Luca. Occhio Antonello che è poco. Via Parigi si chiama, adesso mi è venuto in mente, c'avevo sulla punta della lingua, abita via Parigi lui. Ah, io ho capito, via Parigi, sì. Andà bene. E beh Luca, allora, domani se non piove vengo a prendere quell'affare Luca. Ehi, giù, va bene. E siamo tornati in verticale, ho ripristinato e ho montato la verticale e mi sa che ho messo la bobina nuova. Ah, la bobina col sistema nuovo autocostruito Luca Master, con quello? Sì. Beh, così è una cosa definitiva, più bella, visto che la posso fare, così che... Certo che sì, gli ho grido. Vabbè, dai. Adesso quando avrò voglia che salgo in zona, comprerò un po' di filo. Così poi mi diverto anch'io, tanto per la bella, non perché mi serve, ma così per la bella. Va bene, ce l'ho quella che avevo fatto ultimamente, ce l'ho quella, ma non la voglio svuotare quella, ne voglio fare un'altra, insomma, ecco. E così a voi posso la collezione. E a voi quando mi la combina ce l'ha potuto e la garretta della mondezza. Se continuiamo così di questo passo, e non c'è attività in frequenza, poca gente, poca voglia, vabbè dai, avanti Antonè. Ya si riempie, non ti preoccupare, ya si riempie piano piano, ci sono i, come si dice, il giorno che è pieno, il giorno che è vuoto, qualcuno già entrerà al limite, richiesterà tutto, di nuovo. In un periodo un po' così, capito, devi stare a casa attaccato al baracchino e non fare nulla, ti viene la noia, poi buttato in casa non puoi uscire, esci di testa, capito, ormai la gente è abituata a uscire ogni giorno, quindi con una scusa esce, quando c'è da uscire va a far cosa, ecco, a posto di comprarmi un attimo e qualcosa, guarda, sul mercato basta che mi distraggo un'ora. Antonio! Sì, dimmi. Ma poi tua sorella non l'ha più piazzata l'antenna? Sì che ce l'ha piazzata l'antenna, ce l'ha anche la prima piazzata. Non l'ha ancora tolta, è che devo cercare di fargli da... Perché cucina non fa, capito? C'è mio nipote, c'è, che tocca tutto. E quindi romperebbe l'apparecchio. Quindi devo cercare di verniciare devo comprare le luci 58, verniciarlo nel colore verde della facciata, piazzarlo e così mi faccio il foro in camera da letto, di questi baracchini in camera da letto sopra il mobile, capito? ce li ho qua tutti e due io, cioè, c'ho 39 suo, ce l'ho qua io, lo si guarda adesso per non guastarsi. Poi l'alimentatore ce l'ha perché gliel'ho regalato io, quindi mi fa barato che mettere il baracchino dentro alla scatola in legno, che c'è l'alimentatore interno, e la stazione è pronta, capito, stazione bassa. Da 2020 senza alimentatore non fa nulla, direttamente la... se ne stava in camera sua. So che c'è quel problema, capito? Adesso provvisionalmente non possiamo fare nulla. Ma non ho capito questo problema, boh, di condominio, di quello dell'altro. Ma che se uno segue le regole può montare, perché oggi comunque non c'è bisogno neanche di concessione più. Ma cosa si deve ribunire? Visti i problemi, boh. Quando metto la canna da pesca, quella che mi hai dato tu, di dove è attiva? Ehi, non sai come ha telefonato veloce? Piccatone, che cosa hai piazzato in casa? E cosa hai detto? Ho detto un barattino, ho detto per i miei nipoti. Perché tu in casa, ho detto, stanno impazzendo, ho detto, non si possono sopportare, sono, i bambini sono abituati a uscire fuori, ho detto, non ho tenere lì in due giorni dentro casa. Allora dice, fai, dice una cosa, mi ha detto, dice, la mattina dice, sollevi l'antenna e poi la sera la abbassi, ha giocato per stare così, sale e scende, cazzo, sembrava che mi fossi facendo un su e giù, hai capito? A un certo punto gli ho detto Giovanni, la mettiamo in terrazzino, solo che Giovanna mi ha passato in terrazzino con questo freddo qui, a parlare al baracchino, seduta davanti alla lavatrice, il terrazzino è da aria, capito? Non è tappato in alluminio, fosse stato tappato in alluminio con il vetro, allora sarebbe stata una cosa diversa. Sì, ma io dico, perché mettersi questo problema? Cioè, la può mettere, perché non mettersi questo problema? Perché i cavi esterni nel muro non ne vogliono, se no l'avete fatta sopra il tetto l'antenna, mi. Per quello non erano stati problemi, l'avevo installata sopra il tetto, un po' più giù della mia, e avrebbe murato tranquillamente con 30-40 metri di cavolo, non ce ne volerebbe così tanto di cavolo. Passa dietro un tubo, facciatela dietro un tubo, se proprio il problema è il capo del condominio. Oh no, Giulio? Beh certo, in qualche maniera bisogna trovare la soluzione, cioè uno non si può mettere dei problemi per una stupidaggia, perché in realtà è una stupidaggia. C'è un filo, non so, se c'è un fluviale, lo leghi al fluviale, ci metti di quelle fascette di plastica, oppure addirittura puoi anche farci un po' e farlo scendere dentro e non se ne parla più, non succede niente, come qualcuno ha fatto. C'è un bel lavoro ed è domani anche nascosto, tra l'altro. Ma io sto usando 5 watt, un baracchino da 5 watt, sto andando bene, sì, tu. A Puglia, qua c'è 9.30. Davvero? Ok, 9.30, quanto mi piace quel numero? 30. Claudio, rientrato sì. Brecco. Ma mettogli al 30 giù, 19. Avanti il brecco, buonasera. Io ci arrivo al 30, buonasera. Già lo credo, Vittorio. Da me arrivi al 20. Lo so, da te arrivo a 9, io lo grido, non è che posso pretendere di più. Con 5 fatti, cosa vuoi andare? Con un vecchio baracchino? Va bene, dai, va bene. Avanti, Massimiliano, buonasera. Ciao Giulio, ciao Tiro, ciao Luca, e saluto a tutta la ruota, dai. Ok, ciao Massimiliano, ciao Tino, avanti Tino. Anche io, dai, sto usando un baracchinetto oggi. L'ho preso così da stamattina, l'ho acceso e tu stasera funziona con questo, poi lo rimetto in stand-by, che Giulio, questo è il Lincoln. Ehi, 920, modulati anche 22, 25, perciò va più che bene, sì, alla grande, Luca è che mi arriva poco di segnale, ora, vedo. Bisogna che trovi qualche persona che possa costruire un'antenna per Luca. Va bene Luca, se ti trovo una persona che ti possa dare un'antenna come si deve, Luca. Eia, are you my God? Va bene, va bene. Sono tutti furti il segnale, anche Antonello, 9 più 10 Antonello. Tu stai arrivando, 9 più 10 qui da me Antonello. Buonasera, sono entrato. Ciao Claudio, buonasera, io già va bene, 9 più 10 a voglia, c'è anche per il pollice, vate qua. Ed è entrato Tino e anche, adesso vi mette il nome. Che c'era poco fa. Buonasera a tutti, non sono lì a indicare, io ho il cane, sono entrato adesso, mi sto spogliando, così siamo a posto, tornate a chi tocca. Ti mando avanti Massimiliano, e poi c'è anche Tino, e anche Luca, avanti Massimiliano. Sì, buonasera, va, ciao Cla, buonasera, ben ascoltato. Ciao Massimiliano, hai capito cosa viene qua a fare la dance? Il palo lo vuoi, il paletto. Cosa? Ciao Massimiliano, buonasera. Cosa? Ho detto, vieni qua, ti spugli, fai la lap dance, lo vuoi il paletto? Ho spugliato per il bella! No Luca, ciao Luca. No, non ci sono buono a fare quello a te. Mi si fa sciarichina, mi si aggrappa e fa sciarichina. Avanti Massimiliano. Ehi, basta bere 2 birre in più, l'altro del palo esce. Quello, 2 birre in più già va bene. Avanti giù. Ok, faccio bene davanti a Luca che è ancora... Avanti Luca. Luca chi? Chi Luca era? Dai che sto per andare via, dai, ci sentiamo dopo. Claro, ma com'è possibile che ci ho stazionari uno e uno tutte le bande? Cioè dalla A alla E, uno e uno, ma come si muove? E mi sta dando invece di 12 watt e 15 watt, come si spiega? Quella è l'umidità, quella è l'umidità magari che lo sta facendo con l'antenna. Ok, dai, ciao Massimiliano, riprendi, dai. Ciao Giulio, insomma a tutti, dai, riprendete. Ciao Lu, allora questo ingegnere di Siracusa mi ha sempre indicato una cosa, che le stazionarie dopo 1 e 3 la lettura è sbagliata, le stazionarie devono stare sempre dall'1, 1 e 1, 1 e 2, dopo 1 e 3 la lettura è completamente sbagliata, ok? Vabbè lì avrà preso acqua, buono lo so, comunque buono dai, 1 e 1 tutte le bande va bene. Massimiliano non si muove, te lo voglio nulla, guarda, ti faccio il video, non credo che c'è uno strumento rotto perché non è nuovo nuovo, c'è una roba usato, aspetta, calibrazione, non si muove, niente, non vuol dire nulla, non si muove. No, vabbè, l'uno già ci credo, non c'è bisogno di mandarmi il video, dai. Ok, però comunque l'umidità delle antenne anche. Vai Tino. Cappa, mi stanno dicendo che è troppo barattoloso questa radio, mi date conferma? Per me sì, per me è un po' barattolosa, sì, in effetti sì, non so per gli altri, ma per me sì. Avanti Claudio. Leggermente, non è che viene di Beggio. È abbastanza comprensibile, amplificata, diciamo che più che barattolosa manca leggermente di medio-bassi, c'è un bel di acuti, capito? Forse per quello che sembra barattolosa, ma alla fine non è così, non così male. No, vabbè, chi me l'ha detto non metto in dubbio la sua parola, per carità, ma se si poteva migliorare, ecco, magari abbassando i toni o aumentandoli o abbassando l'amplificazione, questo volevo sapere. No, abbassando l'amplificazione no, lasciala così, puoi migliorare se i toni agiscono, quanto ce li hai i toni? Guarda, così a due, se vuoi lo metto a uno, un pochino, sicuramente l'ho anche spostato io passandogli il pennello poc'anzi per togliere un po' di polvere, dai. No, uno così che cosa vogliono, non ho capito, bellissima radio, io non la sento barattolosa, bella curta, va bene. Adesso l'ha modificata la radio, tu non era barattolosa, qui da me sia ben chiaro, poi è questione anche di lontananza, no? li prendi Tino? Sì, le 7 un pochino sovranodulate, non so con chi. No, l'ho abbassato leggermente i toni, Giulio. Poc'anzi ce l'avevo a 2, adesso l'ho messo a 1. Poi non lo so, Massimiliano, in lontanata, come ascolti tu? Ma guarda, io ti dico, Tino, per me va bene, secondo me devi, ma proprio un'idea, abbassare l'amplificazione, ma proprio un'idea, e che ti sta ascoltando dire di lavarsi le orecchie bene, sicuramente non si è fatto la doccia ancora dopo il lavoro. Boh, aspetta, dai, chiediamo anche conferma, perché magari in lontananza si sente bene, l'ho abbassata appena appena l'amplificazione. Poi un microfono è differente dall'altro, questo è il primo mio MB più 5, quello storico diciamo, quindi ho una capsula ceramicata e vabbè. Ho abbassato anche un pochino l'amplificazione, chiediamo anche conferma a Luca, che forse è il più vicino che ho, dopo credo con Giulio, dai. Luca. Vai, riprendo io, per me così va bene, io poi non so come la vogliono la radio, per me va bene, poi non lo so, noi siamo abbastanza lontani, può darsi pure che magari lui ti senta più barattoloso perché sei più vicino a lui, tutto qua. No, ma così come adesso va benissimo, così va benissimo Tino, adesso che hai abbassato anche leggermente l'amplificazione, qui da me va benissimo. Bene, bene, dai, allora lasciamo così. Ne ho un altro, ho ancora sempre quello che mi hai dato tu, Massimiliano, il più 4, però ce l'ho in accoppiata con un'altra radio e non ho voglia di fare né le connessioni né niente, dai, lasciamo questo. Va bene, se va bene lascio così. Oh, per me va bene, poi io Giulio ti ha detto che va bene, vediamo un po', claro, riprendi tu. Per me è un'ottima radio, bella amplificata, chiara, i medio alti molto acuti e leggermente scarsi le medio bassi, ma va bene così, non è assolutamente barattolosa per me. No, adesso no, assolutamente no, adesso va benissimo. Inizialmente aveva un pochino, perlomeno qui da me, siamo vicini, per cui sarà per quello, però adesso è perfetta, adesso è ottima, ottima veramente. Luca, ci sei? Boh, va bene, se non mi sbaglio c'era anche Antonello, Io ti sento benissimo comunque, da poco fa. Non c'hai tutta questa roba metallica, detta. Ti ascolto bene. Bene, e allora sicuramente sarà successo così, che poc'anzi ho la mania di molte volte passare il pennellino così adesso, però mia moglie mi ha cambiato un pennellino da 3 cm, me ne ha dato uno da 10 cm, sembra una pennellessa, quindi sto utilizzando questo per la radio, perché è nuovo, quindi faccio più in fretta anche a pulirle. Anch'io faccio così, Tino, col pennello, e poi magari qualche volta mi dimentico di regolare tutto, perché come passi il pennello, se sai, i potenziometri sono talmente scorrevoli che si muovono, e allora a quel punto può succedere, dai. Va bene, va bene, va bene. Avanti, Massimiliano. Sì, sì, positivo, dai. Va bene, va bene. Perché bisogna mettergli un chiodo e potenziometro, una goccia d'acqua, che quella non si spostano più. È davvero, l'unica cosa è quella. Oppure fagli una saldatura elettrodo. Avanti, Claudio. Adesso verrata che mi ha ricordato Massimiliano una cosa, come la Giampaolo, per non staccarsi il connettore di quelli flippati, l'aveva bufflata, che cazzo. Che Giampaolo? Davvero, Cla? Allora, faccio una volta di memoni sul microfono. Avevo una radio con la secchia ranghiera, no, quello flippato. Accolata che l'aveva bufflata. Ah, senta, guarda, questo è il massimo. Il massimo della risata, quella sarebbe. Ma comunque, ognuno si arrangia come crede. Vabbè, in cielo ci sia anche lui, poveretto, a me è piaciuto tanto. Purtroppo il destino è crudele e lo sappiamo benissimo, non c'è bisogno nemmeno di parlare di più. Avanti, Tino. Vabbè, no, ma è vero, molte volte non te ne accorgi neanche. E penzellando si spostano, tu convinto che che sta facendo bene, magari dà fastidio perché esce come deve uscire, vabbè. Ma no, niente, l'importante è questo, che siamo riusciti a trovare un compromesso, ecco. Poi sono anche un po' di tempo senza cambiare la batteria, quindi non so se è efficiente. Vedo che lo Smitter sta andando, non sta andando come l'altro, anzi l'altro è proprio a zero, questo invece sta sbatturando bene bene bene, quindi vuol dire che c'è ancora la carica della batteria, c'è ancora. Andare Luca, se ci sei batti un colpo, dai. No, ci ha proprio mollato senza né ciao né ciu. C'è mai come un bel frutto. E questo serpente bene sta funzionando, sì. Oh dai, se ci sente dopo guarda a casa, dopo, ciao. Ehi, Maiko, ciao Luca. Sì, va bene, Massimiliano. Non ti posso dare un segnale preciso perché questo è ancora più scarso dell'altro. Sono con il presidente Lincoln io. Ho visto che sei intorno ai 7, 5-7, ma è relativa la cosa, dai. Non ci far caso. No, vabbè, ma l'importante mi sembra la radio, poi il segnale relativo, dai. Vedi, adesso hai fatto da 7 a picchi positivi 8, 8 e mezzo, quindi va più che bene. Va bene allora, dai, la radio c'è più di 20 anni, quindi ce n'è per i maiali, come si dice, no? Quanto ce l'hai il partner, Massimiliano? Ce l'ho a due il Mickey Gang, la radio ce l'ho al massimo. Provo a metterlo a 2 e mezzo, piano piano un po' di più. Guarda, così ce l'ho a 2 e mezzo. È bellissima così. Giulio, tu che sei vicino, va bene così? Va benissimo, ma anche prima, ma a me mi andava benissimo anche prima. È abbastanza buona la modulazione, Massimiliano. Massimiliano già lo sappiamo, né più né meno come te, come Tino, tutte le radio che escono sempre bene, no? Non come qualcuno magari alle volte che esce male. Non ho mai niente da dire a queste persone qua che ho fatto il nome. Va benissimo Massimiliano. Arrivo, un attimino! Mi hanno chiamato per la cena, ho dovuto gridare per farmi sentire giù in tavernetta, perché io sono nel piano della zona notte. Va bene ragazzi, io vi saluto allora, avete considerato che ho il microfono, vi saluto e vi ringrazio per il piccolo questione che abbiamo fatto stasera, è stato un piacere e io vado a cenare. Dai, ciao Tino, ciao Massimiliano, ciao Claudio, Antonello e Luca Maricomio e anche Luca l'altro che sicuramente è in ascolto. Saluto a tutti, ascolto fino a Lino e dopodiché vado a cenare. Avanti Tino. Bene, riprendo io, dai. Ciao Giulio, ciao, buona carica, buon tutto, nel caso non ci dovessimo sentire, dai, ci rinnoviamo gli auguri, sperando, dai, di sentirci, così almeno è una giornata un po' particolare, quest'anno è andata così, quindi dobbiamo almeno ascoltarci in radio. Va bene, vai Claudio, avanti. Ciao Giulio, buona cena, buon tutto, le prossime, noi già ci sentiamo anche domani, insomma già non c'è problema, avanti Massimiliano. Scusa un attimo Massimiliano, comunque o Claudio, non ti sei accorto di niente, stavo usando la KB23, ok, con questo chiudo, ascolto il finalino di Massimiliano e poi chiudo, ciao a tutti, grazie ancora per il consiglio, vai Massimiliano. Ciao Giulio, dai, buona serata, buona cena e buon tutto, ci sentiamo alle prossime, dai. Se vuoi rifare un altro passaggio, fallo pure, tranquillo. Come Maria Rughevo, devo dire, di tu, la KB23, ciu. Andave, l'ho tirato fuori, adesso lo faccio scordare un pochino, eh. Ci sentiamo, grazie ancora per la chiacchierata, è stato un piacere con tutti. Alle prossime, ciao, chiudo, riprendi pure te. Va bene. Ciao Giulio. No, Luca mi ha mandato un messaggio che si è dovuto allontanare, quindi non ha fatto in tempo a salutare, mi ha detto di salutare al posto suo. E quindi ritenetevi tutti salutati anche da Luca Fripper. Vai Massimiliano. Cappa positivo, mi figliola una pigliata buona. Abbassa le voci sta radio, che lei sta studiando. Attenzione, fianco di fava! Bombolina! Buonasera a tutti, mi! Cappa, ciao Antu, buonasera, ben ascoltato, vai ti. Ciao Antu, ciao, buonasera. Buonasera, mi! Vi stavo ascoltando, ero ma niente, io vi stavo ascoltando. Bene, bene, ogni tanto ci vuole qualcuno che ascolti, perché se no muore la radio. Scappa, no, sono qua perché sono appena durato a travaglio. Quindi ho detto va. E ci accendo e vediamo un po' chi c'è. Vai, ciao. Ciao Anto, buonasera, ben ascoltato, vai. Ma come viaggi? In bicicletta, Anto? Oggi no, però questi giorni sì. A me la patente? All'anno che vieni. Ah, gli esami sono la prossima anno. No, ho scelto io così. Ah, hai fatto bene. Sì, questo l'avevi sentito, questo è 140, che l'altro giorno mi hai detto che l'avevi già sentito, questo è 140, quello che ho preso, quello funzionante, diciamo, là. Sì, sì, l'avevo sentito, all'inizio era troppo, mi sembrava più il 430, poi invece ho fatto orecchio, va bene, va bene. Il 430 c'è un po' più di acuti, un po' più alta, questa è sotto la C Michigan, però già spinge bene. Ma io quello che avevo io la mettevo sotto la tra la I e la C, però c'è poca differenza, dai. E guarda, con gli occhiali, sì, anche questa è in mezzo, tra la C e la I. Andava bene. Va bene. Che ci è rimasto Antonello in parcheggio? Uia. Ma poco attendiamo un poco di riscaldamento che va freddo in occhi. Sì, fai così, io l'ho già acceso la stamattina. Certo, c'è la finestra aperta, io ho guardato che vengo in questa stanza, non si può stare. No, vabbè, io l'ho acceso perché, allora diciamo la verità, non da stamattina ma prima di mangiare l'ho acceso, perché il caldo che fa durante la notte, diciamo, tra la stufa, dura sino a metà mattinata, poi vabbè, Marisa fa una cosa e l'altra, apre le finestre, fa variggiare e si ghiaccia, credimi, questa casa si ghiaccia la mattina, quindi sono costretto prima di mangiare a fare il fuoco. La massa che te ne faria, allora manco mi caggio le mani. Scusate, ora, già andende. Avanti, Massimiliano. Sì, positivo. E anche io. Ha giocato un buco, la tua pelle, ti bello. No, qua ci sono 22 gradi. E si sta bene, ho acceso sia quella di giù che quella di su e non si può entrare allungato. Comunque, va bene. Sì, ottima radio, bella, sì, una bella modulazione. Ehi, figurati, quando l'ho preso mi ha manco decimale questa radio. L'ho messo il decimale che, vabbè, non funziona, tieni premuto, eccetera. E poi ho fatto una girata di tre che ballacche, aiutaci a vedere si pompa, perché c'era il temerino, quello che c'è dietro lo zero, che era già al massimo, aggiunto blu, l'ho aperto, ho messo l'LC e non andava né manco si muoveva, adesso arriva a metà almeno. Stava buono, grazie, ottima modulazione. Va bene. Io a tu, facci sognare il tuo piago di fava. Ehi, ha già piccato. Ehi, accappami. Ehi, va giù a te, non poco fredda. E quindi, dallevo un pochettino, scaldare un pochettino. E no, che va freddo, ma te sì. Fai così, ma io un poco di massaggi e di carci le mani. Va bene. Cara, com'è il segnale? Così sono in bassa potenza, con questa radio. No, è più 20 quasi, sì. Ok, e così è l'alta potenza di questa radio. Quasi 9.30. Che sciuga, si mette un radiale da chitarra. Vai, bucci grosso, baci a me. Cosa, tu? Come vuoi baciare, Zio Antoni? No, tranquillo, Anto, non voglio baciare nessuno. Ma è più forte il segnale di Massimiliano, Anto, rispetto al tuo. Tutto l'ho detto, fai 9.10, 9.20. Lui fa 9.20 liscio, quasi 9.30 quando aumenta la potenza. E altro voi faccio l'addominale, compreso. Sì, allora, hai visto il raffica che ha fatto la Sadì? Sempre in chibie. E con questo ho migliorato? Questo è un po' più cupo a dire la modulazione. Vero, Massimilia? No, io, se devo essere proprio, già lo sai, a pennello, tiro, questa sì, leggermente saturo. Saturo addirittura? Saturo? Sì. Un tengo in occhi. Aspetta un attimino, forse... Guarda, se è cambiato ora, non si vede. media un pochino, 1, 2, 3, avevi ragione, non ho abbassato il pennello. Sì, adesso è migliorata tantissimo. È il pennello che mi forte. E anche deve comprare il suo cinghiale, compreso. Santa Marca! No, vabbè, ma volevo sapere, la radio è differente dall'altra, sì? Sì, ha cambiato, ma comunque è sempre ottima, eh. E questo è un altro più 5. Questo addirittura il più 5 è... forse Claudio se lo ricorda, cioè quello vecchio era col quadratino nero dove c'è lo Smitter e la scala era gialla e rossa, questo invece è tutto giallo, la scala è nera e poi il rosso il finale, questo non si muove neanche lo Smitter. Anche quello che c'ho io è così, quel modello, non si muove lo Smitter, mentre l'altro invece si muove. Infatti forse dovrò alzare il mic per l'amplificazione, la dei tuni, non lo so. Non mi regolare niente, lasciamo così. Io. Ehi Massimiliano. Se ti posso dare un consiglio per il più 5, ci sono quelle capsule che a posto di avere lo sfondo marrone ce l'hanno verde. La capsula dell'MB più 5, quella piccola, se tu la guardi dietro, diciamo, dove attacca il positivo e il negativo, ce n'è un modello che è tutto marrone e quella è proprio la classica del più 5. Invece quella che spinge un po' di più, molto di più, quasi il doppio di quella, ha lo sfondo verde. Non so se mi hai fatto questo... se hai mai guardato questa capsula, ecco. No, anche perché diciamo che non è un perlomeno, io l'ho apprezzato, prometto, guarda che ho fatto la modifica, vabbè, vuol dire se hai fatto la modifica sai cosa stai facendo, tu sei una persona in gamba, quindi l'ho lasciato così, non so né che capsula né cosa, che modifica abbiamo fatto, non so niente, so che c'è paragone tra una e l'altra e basta, però non so quale sia migliore, ecco. Ma diciamo che la modifica la so fare anche io, la modifica è un ponte, ok? Tu prendi un pezzettino di filo e fai un ponte all'interno, però già cambiando la capsula e mettere quella con lo sfondo verde già ti cambia totalmente la modulazione, molto più bella, più forte, più corposa, capito? Quella è proprio la classica che vendono con le MB più 5 con lo sfondo marrone. Va bene, dai, ok. Certo. No, magari può dipendere anche da radio a radio, perché se io cambio questo, l'ho già fatto in passato, ho messo questo mic con il President Lincoln e non spingeva come sta spingendo con questo, ecco, quindi non si accettava uno o l'altro. Positivo, no va bene, ma per farti capire, quella capsula gli spinge un pochino di più, un bel po' di più dell'altra, là. Ok, avanti, qua. Aspetta, stavo cambiando radio, che trovo l'altro, il 430 con la polarizzazione orizzontale, avessi mi sentite. Cappa già, fai, avanti, bombolo! Cappa, a chi? Lumentina in verticale, là era in verticale, orizzontale, e già lo sento sempre già, a Puglia! Prima era un retro, ora è musso! Così è! Non riuscì esattamente vicino, cappa, qui c'è una polarizzazione orizzontale, di polo dei 10 metri, della radio è il 430, cambia la modulazione. Allora, ma non è ciambadurba, no? Però la modulazione questa qui c'ha più acuti ed è più forte. Quindi è strano, sei calato di segnale, proprio il radio è migliorato. Il segnale è molto più basso, sicuramente. Questo è il 430, ti vedi, cioè senti la differenza, come l'ho notato Massimiliano, perché i microfoni sono uguali, però sembra che abbia più acuti, anche secondo me, ascoltandomi in cuffia, capito? Sì, ti stavo dando conferma, per dire la verità. Sì, calato leggermente di segnale, però la radio è molto più forte. Maledetta, 430 è maledetto, non c'è niente da fare. Vabbè, ho cambiato. secondi, ma rispondo subito. Lei è positivo, va bene Tino. Clara, allora ti ripeto, sì, leggermente è sceso di segnale, però la modulazione lì c'è maledetta che. Questa è maledetta, sì. Questa è maledetta perché è così, c'è niente da fare. Tu non lo senti, bombolo? C'è una bomba, ritengo in occhi. Qualche lineetta di segnale farà, ma lo sento un bel forte. Oh Massimiliano, guarda, si è cambiato così la radio. 1, 2, 3, prova, se non ti differenza. Prova. Guarda un po', poi mi dai conferma anche tu, Claudio. 1, 2, 3, prova. È cambiata perché è agganciato. Sì, infatti. Basta un niente che ti rovina. No, non è che ti rovina, Tino, forse perché noi siamo vicini, capito? Quindi mi accorgo subito, capito, quando sei agganciato, quando sei sganciato. Però diciamo che la radio potrebbe anche andare bene, capito? In lontananza sono sicuro che va bene, magari noi perché siamo troppo vicini, tutto qua. Io non ho tipo il problema a sentire a Tino, ma penso neanche a Claudio. No, vabbè, stavo facendo una prova mia, praticamente abbassando tutto il watt della radio e dando una spinta in più, una marcia in più, ecco. Sì, è una cannonata, sì, no, che... Per non avere molta differenza ci vogliono i MOSFET. Sì, lo so. Questa presto ce n'è uno che è proprio bello, 210 euro spedito a casa, 4 finali a MOSFET, ed è bellissimo. Sì, allora, sentite Massimiliano, che tu non vuoi comprare la strada usata, 210 euro spedito te lo porti a casa, quello lì che stavo dicendo io, quello della RMI, carino Massimiliano. Ma quanti watt è Massimiliano? Allora, i watt sono 300 in AM, 300 in AM e 600 in banda laterale. Ok, RM Italy 503, nuovo, però parliamo di pacca con tanto di scontrino e di tutto. Con che occhi si attende il lampione, si attende? Io lo volevo, ma credimi, veramente, lo volevo prendere. Però avevo intenzione prima di provarlo, se trovo sicuro disponibile. Ha comprato Gianni doppio room, però gli ha messo la ventola sopra, secondo me ha sbagliato, perché quel murello lì non c'è senza la ventola, no Massimiliano? Non è quello che avevi detto a me. Ehi Acla, io l'ho consigliato io di prenderlo. E gli fa anche una bellissima radio. Non l'ha provato con 10 watt d'ingresso e non satura niente, capito? Proprio bello. Vabbè, la ventola, se gliela vuoi mettere supplementare gliela puoi mettere, ma quelli sono testati senza ventola. Però diciamo che uno gliela mette sopra, carina, per vederla, ma non c'è bisogno. E 300 watt in AM sono tanti. E poi parità prezzo, cioè tu prendi un B300, lo paghi già a 130 euro, 140 euro, un B300, capito? Cioè aggiungi 70-80 euro, ce l'hai nuovo con 300 watt di ingresso, cioè 300 watt in AM, pieni parliamo. Sì, Massimiliano, guarda, io ne ho uno, modello 500, però è quello della Falcos, non so se ce l'è presente, diciamo che non sta dando il massimo, perché se dà il massimo va in saturazione, lo sto facendo andare con 150, 200, forse 200 picco massimo. Attualmente io da quando ho provato il tuo, con la 24 volte. Io me l'ammetto io. C'avevo la scala 200, cazzo brusco, boom, e mi scinchiava la scala. Io ti ignora, ma la cosa c'è goccia. Metto in scala 1000, cioè fischiati, 24 volte, quello che c'è Massimiliano. 600 watt da fare. Vedi, una volta che prendi una cosa del genere, allora ti dà soddisfazione, ma tornando indietro, cioè non c'è più nessuno, non c'è più competizione, non c'è più niente, siamo quattro gatti. voglio dire, non è che la mia intenzione era di prenderlo, per dire la verità, però volevo prendere quello che faceva Massimiliano. Qual era Massimiliano? Il 500 era, se non mi sbaglio. Cosa? Sì, il 500? Quello che venne Italia, il 500, cos'è? Ce n'è uno da 500 o da 300, non mi ricordo adesso. No, io non ne ho 500, io ho l'805 della RM Italy e poi c'ho il Winner, il 1000. Che lo piace a sentire un po'. Ah, scusate un attimo, ma signora, questo che mi ha mandato ce l'avevo già sul carrello, lo sai. Questo è bello, lo so. Infatti me l'avevi consigliato tu, l'avevo messo nel carrello e non sono anche dimenticato, però c'è sempre lì. Sì, ma lo sai perché lo consiglio io? Perché io ce l'ho, ed è tutto MOSFET, capito? È una bomboletta, anche se il mio è un pochettino più grandetto di quello, va. Perché un pochino più grandetto? Due voci! Vabbè, non si dice, Sì, si dice. Non si dice. Ciccio, tanto ci attacchi chi su di scioglie l'antenna? L'antenna non si scioglie un bravo. Non lo so quanto tiene quell'antenna, non lo so, ma guarda che è pazzesco quello che c'ha, l'805 sto parlando io, non 503, 503 è normale, no? Sono 270 watt in AM, pieni, ma l'805 è la paura, guarda che io l'ho provato quello di Massimiliano, 24 volt, io c'ho il valvolare, da più watt del mio valvolare. Questo mi piace a me. Anche qua dovrei cambiare cavo, dovrei fare quel lavoro lì per... Se no, cazzo, che c'è un cavo diventa di bucingomma, diventa. Antenna già tieni, non ti preoccupare. È il cavo che non tiene. Ma Massimiliano, qual è quello rosso? No, non è rosso, no. Il mio è tutto, diciamo, alluminio, contravvento là sopra. Ah, sì, ho capito. C'era anche un iconcio, però che abita vicino a te. Però mi sa che l'abbiamo provato, è da 200 watt in AM. E allora l'hanno bottito, che non può essere. Vabbè, quello che c'ha lui a 12, questo a 24, è diversa la cosa, ha diversi finali e tutto. Ma lui infatti l'ha preso, mi ricordo che ha, se non mi sbaglio, 4 ventole sopra, l'ha messo in macchina, ecco perché ti dico, sopra molto di più, bello perché accorda tutte le bande, tutto quello che vuoi, però come resa, Non può essere, sì, quello non può essere perché quello di Massimiliano, il 24 volts, l'805, quello con 4 ventole, allora col wattmetro della Daiwa che c'ho io, cioè che c'ho io, che non era il mio, che me l'avevano prestato, era di Gianfranco, che poi l'ho venduto, dava in AM 600 watt pieni, ma modulati 600 pieni. Ho capito, qua stiamo parlando di un 24 volt, io sto parlando di un 12 volt, che l'ha piazzata in macchina, gli ha fatto il lavoro un tecnico, forse non dico cazzate io, l'ho visto di persona, sono stato deluso, perché sono soltanto qua, per quello che costa non vale un cazzo. No, 12 volt me l'ha detto anche Massimiliano, tanto è vero che Massimiliano mi ha detto, se devi prendere l'805, capito? Infatti mandare anche il trasformatore a 24 volt, l'alimentatore a 24 volt, perché se no non rende, infatti è la pura verità, non è Massimiliano. No, vabbè, questo già va, è la verità. Allora, poi quello di quella persona che sta parlando lui è anche diverso, capito? Vabbè, tre ventole tutte e due, però per dirti, lui c'ha sei marce e io ne ho solo tre, per farti capire, ma io te lo faccio vedere sullo strumento mio, qua con il mio Daiwa, con mezzo watt d'ingresso ti dà 550 watt in AM. Mezzo watt, parliamo d'ingresso. E io quello tuo l'ho provato con 3 watt scarsi, 2 watt e mezzo da 300 watt. Sì, Massimiliano, ci credo, non è che... Infatti, ti ripeto, io sono stato deluso perché l'ho visto, tutti dicono, il cambrutto, ma cosa? Vabbè, Ho detto, lo sai, no, come funziona, se tu hai un amplificatore di 100 watt e arrivi un segnale, devi raddoppiare la potenza per poter aumentare il segnale, se no se tu ne dai 120-130 non hai fatto nulla. Sì, ma infatti, allora, io mi devo un secondino allontanare, riprendo subito, però ti dico anche un'altra cosa, Tino, parità prezzo quel 503 è bello, è bello veramente, è completo, c'è il preamplificatore di antenna suo, MOSFET, 4 MOSFET, qua, 210 euro portato a casa, quello lì è secondo me un affarone. Poi ognuno fa di sé quello che vuole, però io ho questi perché ho l'alimentatore, quindi più ce n'è meglio, dai, riprovate voi che mi allontano un secondo. Sì, hai ragione Massimiliano, anche io sono del tuo parere. Vabbè, ma voglio dire, io ne ho avuto uno, l'ho fatto riparare, addirittura me l'hanno regalato questo qua, questo Falcos 500, sicuramente tempo fa hanno fatto polarità inversa, hanno bruciato qualcosa all'interno, io l'ho riparato, l'ho fatto riparare e sta andando bene, non li va tutti perché, però non me l'ha fatto nulla, va bene. Nuovo il B300 e poi ho avuto anche il B550, non andava bene con la radio, ma aspetta un attimino, non è che non andava bene, è che quando io lo stavo utilizzando con il preside Lincoln, era il Lincoln che non andava bene con l'amplificatore e quindi mi sono fatto un ballo, ho preso e non ho riveduto, ma era qua fiammante, quando l'ho pagato io l'ho dato, né più né meno. Ma mi stavate chiamando? Sì, a tutti, ho rilanciato. No, anche il mio, nuovo. Perfetto, funzionante, ti ripeto. In quinta marcia arriva intorno ai 160-170 watt, in sesta marcia va poco più di 200 watt. Va bene, per collegare un baracchino. E non satura, perché te l'ho fatto sentire. Abbiamo fatto il passaggio, ti ricordi tutti i vari passaggi. Non satura per niente col baracchino, però tieni conto. I baracchini che ho io sono dei vintage che danno massimo 3 watt e mezzo, capito? Quello che dà più di tutti è l'Inuit che dà 4 watt e mezzo, quindi lo piloti bene e va bene, se no se c'è una radio a 5-6 watt già devi abbassarla perché ti va a saturazione. Va bene ragazzi, ne approfitto del mic, dai che mi hanno già chiamato a cena, ok? Mi cambio per Antonio, ascolto i finali, se ci siete Claudio, dai, ce la risentiamo le prossimine. Avanti Tino. Sì, dai, anche io mollo perché adesso devo preparare la cucina al ragazzo che sta disegnando, a fare la cucina da mangiare e poi nel caso già anche io mi ci butto nella sedia e riprendo. Niente, ciao Claudio, buona carica, ciao anche a te Antonio, buona carica e a riventare il futuro, ci sentiamo più tardi al limite. Ciao, ce la risentiamo anche oggi. Buona carica anche da parte mia, Tino. Eia, ciao Antonio, ciao dopo. Hola. Eia, scappa. Eia, chi è avanti? Era più forte. Qualche giorno, cioè, più là me ne voglio prendere uno bello pure io. Quando dici proprio zocca. Eia, così. positivo, là. Positivo. E io tu piano piano tanto. Momentaneamente va bene quello che hai, per fare due chiacchiere in città ce n'è per i maiali. Sì, cazzo. Ma ti dico la verità, dell'antenna sono soddisfattissimo, no? Non ho problemi, non ho. Soprattutto questo modello più vecchio. Ah, qualche radio, così, che amplificatorino bello. Mi manca solo quello. L'antenna ci lascio questa, una stinta. Già va bene, no? Quella là non l'hai messa a posto. Devo decidere di metterla a posto. Cioè, questa, vuol dire, ripeto che c'è attaccato. Vabbè, prima o poi mi quando vado appena appena a bidingaglio, ma non la posso tranquillamente. Capo, l'hai vista la raffica di vento che ha fatto l'altro giorno? Sì, sì, già l'ho vista. Io tu, quando vai a posto di un rivetto, prendi una vita autofilattante, gatta, di quelle che fanno il forum, e gliela metti, boh, è risolto il problema. Capo, capo, non c'è più nessuno? Sono andate a mangiare, sono andate. Li farò così, Massimiliano, metto la vita autofilattante, li faccio i segni, perché quella là è un po' più particolare, questa c'ha le viti. E quindi ma in quel posto è obbligatorio, guarda là c'è cioè, quei tubi che entrano, li faccio tutti i codi, li faccio la taratura giusta perché devi stare attento con guida, li faccio i segni con il pannello inderibile, me la taro qua nel lucernaio spesso e vorrei che io la giusto quella là pure, va bene. Però quello che mi fa meraviglia è Massimiliano, che questa qua c'ha le viti autofilettanti entrate già dalla casa, quella là c'ha i rivetti, non capisco perché l'abbiamo fatta così. Altro, l'hanno fatta così perché una è un modello nuovo e quella lì molto probabilmente è il primo modello che tu lo sai benissimo, no? Quando fanno le antenne i modelli vecchi sono sempre migliori delle nuove, poi magari questa qua l'hanno fatta più economica, diciamo così, no? Ma questa qua c'ha le fascette nei tubi, questa qua c'ha quelle viti a entrare, è passaggio obbligatorio, capito? Ma io la verità sono contentissimo, sono, ce l'ho già un po' di mesi e va bene. È positivo. Beh, tu, io, tu hai già cenato, io adesso me ne scendo giù a mangiare e a limite ci sentiamo dopo se coincide, se no ti do una buona serata, no? Ok? Ciao Massimiliano, ce la risentiamo, ciao. Gappa gappa, ciao, dai, saluto anche chi ascolta, ciao. Ciao. Beh Luca! Aspetta, tu, stavo riparando un coso, un interruttore. Aspetta che è andato con Rosmo e trova delle sezioni stazionarie qua. Sì, ok, non c'è problema. Giù penso che sia a zero. Giù non c'è niente, nulla. C'è un'idea perfetta con l'antenna. Amore, chi s'antenna? Capisci era tu? Ma cos'è il crossmetro? Quanto c'hai lì? 1,1? Aspetta. Sei fatta questa radio? Sì, 1,1 tu. Ho 1,2 modulati, là. Sei sicuro sei fatta? Sì, sei fatta, là. Scala 5. Scala 5. 5 watt da, non si va, 5 watt, scala 20, sì, 5-6 watt, non di più, sì. Papà, non è così poco. Perché non è tirata. Ah, per originare la casa. E si confermi. Papà, stavo dicendo, già va bene già. ha detto che quando piove ha problemi con l'antenna, o no? Ah, vabbè, forse vabbè, quello che c'è incorporato non segna bene, aspetta. Oh, infatti vedi, qua mi segna, ah no, ecco, SVR, 1,5, no, 1,3 mi segna, 1,2,3 anche nel baracchino. C'è giusto, dai, più o meno. Vabbè, perfetto, quanto è rosmetro? Aspetta un attimino, che testa con questo cavo qua. Ecco, avanti, due coglioni, allora siamo gussi, ecco qua. Cappa, noi gussi sola, però quando non fa umido è migliore la situazione, dammi un, cos'è, 1,1 è? A tu, quando fa umido è uguale. Cappa. Questa un pochino salgo, non mangia ribassa, il buone rugoso, il B150 avrà che ribassa. Ah, non c'è un po' più nulla, cosa B150, no, non mi interessa. Sì, almeno scalda un po' l'antenna. Ma in tutti, tutti i pariti. Ma questo invece c'è il vizio un pochettino di stazionare l'età, quando è, come si dice, quando c'è, quando piove. Però già ribasso la buia. No, quella di giù niente, questa ce l'ho da là, ho fatto la prova, 1,1 di stazionati. E qui c'è una cannonata, cannonata via in occhi, ma stessi, non mi dava nessun tipo di problema. Aspetta un secondo, tanto devo provare un led, aspetta. Vai. Io tra un po' quando a farmi la doccia. Yeah, avanti. Guarda che sei in banda laterale. Ti sento, sei in banda laterale. Ti AM, metti in AM. Ebbo, non ti comprendono. Ma chi è avanti? Papà, guarda che sei spostato di frequenza sicuramente. Non ti sento. Se ci sei vado a farmi la doccia, dai. Io sono qua. Papà. Canale 10, c'è qualcuno in ascolto, cambio.